Una buona serata a tutti voi, benvenuti all'appuntamento di Hard & Heavy, consueto da lunedì al giovedì. Ricordo che il programma di lunedì viene replicato il mercoledì, il martedì, il giovedì. Il venerdì invece una puntata tutta dedicata o alle interviste, e ne avremo alcune anche per questo mese di dicembre, oppure, come spesso accade, come spesso o quasi sempre è, con lo spazio dedicato al live, i live ufficiali, quelli più belli delle band di hard rock e quelli delle band di thrash, speed metal, heavy metal, power metal in genere. Però questa sera permettetemi di partire con il ricordo di Kevin Dubrow, visto che avevamo già registrato le nostre puntate di Hard & Heavy quando abbiamo saputo la notizia della sua scomparsa. Kevin Dubrow, cantante dei Quiet Riot, è nato in quel di Hollywood nel 29 di ottobre del 1955, è scomparso a 52 anni lo scorso 25 novembre. Oltre ad aver legato il suo nome ai Quiet Riot, ha partecipato anche alla canzone Stars del progetto Hair and Aid del 1985, che vedeva 48 musicisti del panorama metal mondiale. Ha inoltre pubblicato un album di cover dal titolo In for the Kill nel 2004. Questa è Metal Elf, dall'album dei Quiet Riot intitolato proprio Metal Elf, dove ritroverete la sua voce. La sua voce è quella di Kevin DuBrow, Quiet Riot con l'album Metal Elf. Parliamo ancora di loro, storica band americana nata nel 1975, nella quale oltre al cantante DuBrow ha militato, lo sanno in moltissimi questo, il bravissimo chitarrista Randy Rhoads, che dopo i primi due album lascerà la band per suonare con Ozzy e purtroppo morì in uno stupido incidente aereo che non, naturalmente non era dipeso da lui il fatto di questo incidente, ma se leggete i libri vedete che è proprio una cosa un po' particolare dovuto al pilota, che era anche abbastanza fatto nel momento in cui guidava questo piccolo aereo dove morirono alcune persone, tra cui appunto Randy Rhoads. Era il 1982. Il gruppo dei Quiet Riot in principio si chiamava Piccola Donna, Little Woman, in seguito lo cambiarono nell'attuale Quiet Riot. Dopo un EP arriva nel 78 l'omonimo debutto, seguito l'anno dopo dall'album Quiet Riot 2, che ebbe buon successo soprattutto in Giappone. In seguito all'abbandono del chitarrista Randy, la band si scioglie, ma è grazie alla volontà del cantante DuBrow che la band ritorna insieme con un nuovo chitarrista e batterista. Il risultato è il terzo album Metal Elf del 1983, che riscosse un grande successo, tanto da vendere ben 5 milioni di copie, raggiungendo la posizione numero 1 nelle charts americane, grazie anche al singolo cover degli Slade, Come On Feel The Noise. I successivi lavori videro la notorietà del gruppo diminuire sempre di più, sino all'abbandono di DuBrow, il cui posto fu preso da Paul Sciortino. Il nuovo insuccesso portò il gruppo a sciogliersi nel 1989. Il ritorno dei Quiet Riot avviene nel 1993 con un nuovo album, per sciogliersi per la terza volta nel 2003. Nel 2005 arriva l'ultima reunion con un nuovo undicesimo lavoro dal titolo Rehab, uscito lo scorso anno e che nella formazione originale vedeva proprio solo il cantante Kevin DuBrow. Li ritroviamo, li riascoltiamo ancora da questo pluri osannato album con Sleek Black Cadillac. We'll be right back. Abbiamo dedicato questi primi 10 minuti di apertura del nostro spazio di Art & Dave di questo lunedì al ricordo di Kevin Dubrow, voce appunto dei Quiet Riot, oggi ritrovati, riascoltati con Metal Elf e con Slick Black Cadillac. Ritorniamo invece alle cose più recenti, uscito a fine luglio il secondo album intitolato Isolate per questa band che si chiamano Circus Maximus, ottima prog metal band norvegese. Band che suonerà per la prima volta in Italia questo sabato 8 dicembre alla Nave di Arlock, questo è il nome del locale in quel di Brescia, e domenica 9 dicembre al Rock Club di Gronchi, di Ronchi in provincia di Gorizia. Membri fondatori della band sono il cantante Eriksen e i due fratelli Haugen che suonano chitarra e batteria. Circus Maximus nascono nel 2000. Avevano ottimamente impressionato con l'album d'esordio dal titolo Capitolo 1, uscito nel 2005. A 2 anni di distanza, tramite Frontiers Record, viene pubblicato questo nuovo lavoro dal titolo Isolate, che si compone di ottime 9 tracce mixate come il precedente lavoro dal celebre produttore Tommy Jensen presso i Jailhouse Studios. Li ascoltiamo con le note di Arrival of Love. Morning came, I could see you lying there. Si chiamano Circus Maximus da Isolate, questo è Rival of Love, motivo che vi abbiamo proposto da questo loro secondo album uscito alla fine del mese di luglio. Ritorniamo indietro nel tempo con l'album degli Alcatraz dal titolo Disturbing the Peace, con Steve Vai alla chitarra, Graham Bonnet alla voce. La band nasce a Los Angeles, alle spalle tre album, ha visto in formazione due grandi chitarristi, Yngwie J. Malmsteen e appunto Steve Vai. Il gruppo nasce nell'83, quando fu creato dal cantante inglese Graham Bonnet dopo essere uscito dai celebri Rainbow. Era grazie al solito Michael Verney che il giovane chitarrista svedese Malmsteen, che all'epoca militava negli Steeler, viene notato ed inserito in questa band. A formazione completa arrivano all'esordio con l'album No Parole from Rock and Roll, che ebbe un buon successo in Europa e in Giappone. Questo successo fece sì che pubblicassero subito, nello stesso anno, un live album registrato in Giappone dal titolo Live Sentence. Malmsteen poi lascia la band per cominciare la sua carriera solista e il suo posto viene preso da Steve Vai, che all'epoca aveva suonato per 5 anni insieme a Frank Zappa. Esce così nell'85 questo Disturbing the Peace. Anche Steve Vai lascerà la band per suonare con David Lee Roth e così gli Alcatraz assumono un nuovo chitarrista, Danny Johnson, che aveva già suonato per Alice Cooper. Con questo nuovo chitarrista pubblicano nell'86 il terzo e ultimo album dal titolo Dangerous Games. Successivamente la band si scioglie e l'uscita ultima ufficiale è del 1998 con un Best Of. Lo scorso ottobre, a sorpresa, Graham Bonnet ha annunciato di aver riformato gli Alcatraz con una nuova line-up. Per quanto riguarda il chitarrista, sarà Howie Simon, che ha già suonato per Jeff Scozzotto e per i Talisman. Noi li andiamo ad ascoltare col brano che apriva questo Disturbing the Peace, ripeto, Graham Bonnet alla voce e soprattutto Steve Vai alla chitarra. Il brano si intitola God Bless Video. Le note di God Bless Video per l'album degli Alcatraz dal titolo Disturbing the Peace. Qualcuno in effetti gli aveva anche richiesto qualcosa degli Alcatraz con Steve Vai. Spero sia l'ascolto, così lo abbiamo accontentato. Chiudiamo questa prima parte con una band che ha suonato la scorsa settimana qua a Milano con Gamma Ray ed Exis. Sto parlando degli Helloween, il gruppo considerato il padre del power metal odierno, che nasce nel 78 col nome di Gentry. I loro primo tre album, Walls of Jericho e i due Keeper, sono considerati dei capolavori. Dopo questi album, Kay Hansen ha lasciato la band per formare i Gamma Ray. Nel corso degli anni il gruppo ha subito molti cambi di formazione, tanto che ad oggi gli unici membri storici sono il chitarrista Michael Waketh e il bassista Marcus Grosskopf. Diversi sono stati i cantanti, quali Kay Hansen, che ricopriva anche il ruolo di chitarrista, Ralph Shippers solo per alcune date dal vivo, Michael Kiske, e dal 1994 Andy Darris, ex Pink Green 69. Per l'album che ascoltiamo questa sera segnaliamo che i due Keeper in origine dovevano essere un album unico, ma l'etichetta optò per una doppia pubblicazione. E allora dal The Keeper of the Seven Keys Part 1, uscito nell'87, vado a proporvi le note di Twilight of the Gods, Helloween. Segna intitola Ice Cream, un bel urlo, una bella ugola, ed è quella naturalmente di Phil Anselmo, con alla chitarra Pepper Keenan dei Corrosion of Conformity, il bassista Rex Brown, già ex Pantera, il chitarrista dei Crowbar e il batterista ex Crowbar. Sono i Down con il loro terzo album Over the Under, uscito da poco su etichetta Roadrunner Records e è disponibile anche in versione Digipack. Ci sono 12 brani. Io vi ho proposto questa Ice Cream in apertura della seconda parte di Arden Devi, appuntamento come sempre offerto da Mariposa Dischi, Corso Lodi numero 1 qua a Milano. Ringrazio, non l'ho fatto in apertura, lo faccio ora, il nostro autore Simone, che ha preparato il tutto anche per questa sera. Il tutto significa scaletta musicale e note biografiche delle band, anche della prossima, che si chiamano Hellstar, gruppo heavy metal americano del Texas, recentemente riformati con il cantante James Rivera, da poco uscito dai Vicious Rumor. La band tornerà con un nuovo album il prossimo anno. Nel frattempo è uscito una sorta di best of con i loro migliori brani risuonati per l'occasione, più due tracce inedite. Loro sono nati nell'82, vi consigliamo l'album Burning Star e il seguente Remnant of War. La band si è riunita proprio lo scorso anno con, ad eccezione del batterista, la lineup dell'album Remnant of War, e lo scorso giugno hanno stipulato un contratto con la AFM Records, che si occupa della pubblicazione di questo Scenes of the Past. Vi dicevo, un best of dove hanno risuonato tutti i loro successi più due motivi inediti. La traccia inedita è questa, una delle due, si intitola Caress of the Dead. Sono gli Hellstar. Eternally. inizia il nostro appuntamento con le Metal News. La prima segnalazione ci porta in Olanda con i Within Temptation, che hanno registrato il concerto che si è tenuto lo scorso 24 novembre ad Eindhoven per pubblicare un nuovo DVD, la cui uscita è prevista per la prossima estate. 22 tracce sono state suonate, 4 in versione acustica. In una è presente anche come special guest l'ex cantante di Gathering Annek. Inoltre, Within Temptation torneranno in Italia per 2 date il prossimo gennaio, il 10 all'Estragon di Bologna, l'11 al Live Club di Trezzo sull'Adda, in provincia di Milano. I Rage, resa nota la data di pubblicazione del nuovo album in studio per la power metal band tedesca, sarà il 22 febbraio del 2008, l'etichetta la Nuclear Blast, il titolo è Carved in Stone. Avantasia comincia bene il terzo capitolo per la project band del cantante Tobias Sammet, che sarà nei nostri studi nella giornata di mercoledì. Nel tardo pomeriggio lo intervisteremo per parlare proprio di questo progetto Avantasia, e poi in concomitanza con l'uscita dell'album vi proporremo l'intervista. Intanto è uscito il singolo Lost in Space, che anticipa l'album Scarecrow, ha raggiunto la 9ª posizione nelle classifiche nazionali, mentre in Svezia ha raggiunto il 3º e il 4º posto, e ancora il 4º posto in Norvegia. Parliamo invece del Gods of Metal 2008, rivelati i primi dettagli. Innanzitutto la location torna a essere Bologna, presso l'Arena Parco Nord. Le giornate saranno 3. Venerdì 27 giugno, quindi non più all'inizio ma alla fine del mese di giugno, sabato 28 giugno e domenica 29. Gli headliner per il giorno 27, Iron Maiden, Judas Priest nella giornata di 29, ancora non sappiamo quello della giornata del 28. Altre band presenti: Meshuggah, i riformati Seat Gates, Enslaved e Yngwie Malmsteen. In tema di Gods of Metal ricordiamo che ce ne sarà anche uno tutto italiano il 2 di marzo, il cosiddetto Italian Gods of Metal, con sole band italiane, tra le quali anche i Macbeth, giunti da una decina di giorni con la pubblicazione di questo Super Angelic Eight Bringers, il loro 4º album, dal quale quest'oggi vi propongo To My Falling Star. formazione italiana dei Macbeth dal loro quarto album, motivo dal titolo To My Falling Star, da band italiana ad un'altra band italiana. Lasciamo Milano, andiamo in quella di Roma per parlare degli Steel Seal. È l'album di debutto per questa interessante formazione, abbiamo detto di Roma, a metà tra hard rock e il power metal, che sta ricevendo anche delle ottime recensioni. Da segnalare innanzitutto che alla voce troviamo il bravissimo DC Cooper dei Silent Force ed ex Royal Ant, ma anche gli altri musicisti non sono da meno. Il gruppo nasce nel 2003, il leader e chitarrista Marco Zangani. A Line Up Ultimata nello stesso anno registrano un demo di 5 tracce che gli valse un contratto con l'etichetta Underground Symphony. Malgrado questo avvengono alcuni cambi di formazione con l'abbandono del cantante, l'ingresso di un nuovo batterista, sostituzione del tastierista, eccetera eccetera. Per il ruolo del cantante decidono allora di reclutare un nome straniero a livello internazionale, uno tra Dougie White, ex Rainbow, attualmente con Malmsteen, e DC Cooper. La scelta finale è caduta sull'americano DC Cooper. Il risultato è questo ottimo By the Power of Thunder. Questo è il titolo dell'album, che gode anche di una buona produzione, un ottimo lavoro, considerato che è anche il CD d'esordio per questa band. Li proponiamo allora da By the Power of Thunder con le note di questo brano dal titolo Roncesvalles Day. Real Seal, dal loro CD d'esordio By the Power of Thunder, con Roncisvalls Stay, con DC Cooper alla voce. Ne abbiamo ritrovati, ripeto, la pubblicazione è avvenuta per l'etichetta italiana Underground Symphony. Passiamo invece alla prossima band che arriverà dal vivo l'8 dicembre a Pinarella di Cervia, il 9 a Verona, l'11 a Roma, il 12 di dicembre al Music Drone di Milano. Sto parlando degli svedesi hardcore superstar. In questi giorni è uscito Dreaming in a Casket, il loro nuovo album. Il precedente era arrivato al numero 14, il precedente si intitolava Hardcore Superstar. La posizione raggiunta non è la 14, ma scusate, la 12esima in Svezia. Da segnalare che la band è nata nel 97, il debutto arriva nello stesso anno con l'album It's Only Rock and Roll, pubblicato solo in Svezia, ripubblicato poi con un titolo differente nel 2000 in tutto il mondo dalla Music for Nation. Da poco è uscito appunto questo nuovo Dreaming in a Cascade, disponibile anche in edizione limitata con un bonus DVD. Oggi li andiamo a proporre e li andiamo ad ascoltare con le note di Wake Up Dead in Garbagesson, questo è il titolo appunto del brano, dall'album Dreaming in a Cascade Hardcore Superstar. In Garbagesson per Hardcore Superstar da Dreaming in a Cascade. Arriviamo alla chiusura del nostro appuntamento di questa sera, il primo della settimana. Ricordo ogni sera 20:21 su Rock FM Arden Devi con Marco Gravelli e con il nostro autore Simone, che propone come ultimo brano The Last Enemy, estratto dal nuovo Rise of the Tyrant per gli Arch Enemy, che suoneranno proprio in questi giorni. Arriveranno il 6 di dicembre con un mini festival a Alcatraz insieme ai Machine Head, Trivium, Dragon Force e Shadows Fall. Il nuovo album, appunto Rise of the Tyrant, è prodotto ottimamente da Frederick Nordström negli studi suoi privati personali in Svezia. Ricordiamo che la band ha una cantante appunto tedesca, ma sono in pratica svedesi, con Michael Emmott che è il leader della band dopo essere uscito dai Carcass, insieme al fratello Chris Emmott che è ritornato e rientrato in formazione. Andiamo ad ascoltare allora questa canzone che si intitola The Last Enemy e vi rimando all'appuntamento di domani sera sempre su Rock FM con Marco Gravelli, con Arden Devi. Ciao ciao! Die!